yeah yeah. Il super enalotto giocherei con un bel 6, mi sistemerei. Essere invisibile che bello sarebbe, nessuna fila mi fermerebbe. Teletrasporto, quanto tempo risparmiato, chiudi gli occhi e sei arrivato. Adesso a casa, l'ora dopo alle Maldive, Bahamas, Cuba oppure il Brasile. Sono un supereroe pieno di poteri, Batman, Superman, io li tiro scemi, odoni non finire, li usa fin di bene, te lo assicuro, togli le catene, anche questa camicia comincia a stare stretta, so quello che dico, datemi retta, no dottore, sto bene davvero, ma tutto questo non mi sembra vero, nessuno che mi crede, nessuno che mi ascolta, il mondo con me avrà una svolta. Ti leggo il pensiero, capisco in anticipo quale mossa fare se sono il tuo tipo. Come Flash sono super veloce, ma senza eiaculazione precoce. Un po' come Hulk, sollevo grandi pesi, ho lavorato come Crick alcuni mesi. Sposto gli oggetti con il pensiero, vivo sul divano spostamenti zero. Scherzo con il fuoco, lo controllo con il corpo, ho fatto confusione, ho bruciato il riporto. Sono un supereroe pieno di poteri, Batman, Superman, io li tiro scemi, odoni non finire, li uso a fin di bene, te lo assicuro, togli le catene, anche questa camicia comincia a stare stretta, so quello che dico.